Kesura. Hey, you kids, say. Hey. Buonasera. Buonasera, salutoni da questa parte. Tutti morti sono. Sento male, Garzia, come mai? E adesso male mi senti. Così, c'è sempre un po' di quel reme appresso. Ma in piedi sì. No, seduto, la 27 accesa ce l'ha. Sì, ce l'ho accesa adesso. E dove c'è il 23? Sì, tu dove sei adesso? Marino, ma non sto uscendo nella 27. Grazie. Ti stavo chiamando. Non ti sentivo, signore. C'è la Tony adesso. Ma a me mi ascolti perché sono 27. Sì, ma tu mi sentivi nella 26. No, prova a chiamare adesso. 1, 2, 3, 4, 5, attento Marino, Marino. No, niente, no, non arrivi qua, Qua c'è, portate, c'è. No, la batteria del microfono è della 27. No, zero, manco segnale, servito, figurati. Sono su 23. Certo, 2 minuti, è andato via perché devono accompagnare la signora. Tutto qua. Avanti, signora. Siamo. E adesso sentito via. Mi sente, oh? No, non ti ho sentito. Ah! Stavo usando il portatile oppure il solito con la 27? Nella 27 mi hai copiato. Non si sentono. E allora cambia la batteria, aspetta. Segnale la batteria, non sei proprio uscendo l'importante. Sono io su 23, ma quella è l'importante sì. Sono zero. Per me senza antenna. Ma è quello là, io sono il magno, quello grande. Ah, ce l'ho staccato nel cavetto. E qual è tutte queste scariche, nel senso? Ma dove? Nel bagno? No, nell'altro. No, io scariche non ho sentito per niente. Quando si abbiamo parlato stamattina col coso, con quello grande. No, nel grande, appunto, può fare l'attaccato e la tua scarica. Come l'ho attaccato e sto usando l'altro che accendo. Mi già va bene, vedo che già va bene. Sì, non ci stai facendo bene, sai perché stai usando un Kenwood, figurati. Ah, se c'è l'attore, è andato per una signora. Ma preparazione zero oggi, La pagazione non c'è nesti oggi, ma ieri era tutto pieno, era poco di tedeschi. Ma non è più come prima, Antonetti, mi ricordi prima, prima era un'altra cosa, tutto cambiato. Sì, allora, non è uscita la pagazione, poi ieri stava, era nuvoloso, stava anche piovendo, quindi figurati. Sì, apro l'antenna inzuppata, ma che sono esci, sei solo. L'antenna è andata lampata, vabbè, piano. E ieri c'era un bel di gente, infatti fino alle 11, mezzanotte c'era la propagazione. Poi oggi è sparita. Oggi si è chiuso il globo, si è chiuso tutto. E allora, Graziano, mettiti a posto questo baracchino da 27 a vedere, per me sei senza antenna. Adesso guarda che ho cambiato questa batteria, vedi, aspetta, è pronto. Attento Marino, mi senti? Non sentivo. No, lì neanche là, ma neanche a me. Per me deve essere in qualche altro canale, non è possibile, perché sono su 23, lui magari è convinto di parlare su 23 normale, magari su 23 sopra o sotto. Cosa ne so? No, che sono in AM, AM sui 23, sto usando lo Zodiac. Queste cose, grazie, non ho capito. Guarda adesso, mi senti, 1, 2, 3, prova. Neanche là non sei sollevato, grazie, nulla. E qui lo Smith della camera ecco, si muove, Ma su quale canale sei? 23? Sul 23. Prova a chiamare, cambia canale, vai 22, prova. sul 22. Non ti sento, grazie. Ho sentito una adesso. Non stai uscendo? Secondo me quel baracchino... Stacca la camera, ecco, attacca il microfono direttamente al baracchino. Grazie, e guarda se sale lo smitter. Lo smitter della camera, ecco, quando schiaccio il mic a parlare sale, e a buia. E l'antenna l'ho mollata, l'ho riavvittata. Aspetta, provo. Antonello, mi copi? Ti ho chiamato. Quale canale stai chiamando? Sul 23 sono. È entrato anche Gio Maria, ciucu ciucu. Prova a chiamare. Non ti sento, grazie. Neanche là vuoi stare. Boh, c'è Gio Maria sul 22 invece adesso. Gio Maria da sola però, a piove nessuno. Sai che ti ha sentito? Prova ad attaccare sul 23, c'è Gio Maria. Dai, adesso ho sentito Gio Maria. Grazie. Aspetta. Mi zitto. Buffetta. Ma che faccio? Mi sono appena rientrato, grazie. Sono andato a fare la spesa. Nella 27 sono. Ma dove? La 23. Ehi, io. Che analisi? 23, binario 23, ci sono io, Tore, Gio Maria e Pompugno, così è Tore. A Torello non mi risponde, boh.